beh, la bottega del dolce. Beh, buddomine. Cappa, sono arrivato adesso, con lo scooter, ho fatto una spesa piccola. So per iniziare a cucinare una parola grossa, roba surgelata oggi. Capito, anche con le paste belle pronte, ci aggiungi olio e parmigiano e hai fatto il pranzo. E io invece ho già mangiato, anzi mi sto mangiando un toast. Cioè, stai già facendo merenda praticamente, via. E poi ho detto, la mattina ho visto quei messaggini là, bellini sono, dai. E che io praticamente li leggo che pomeriggio nel plato, praticamente. E purtroppo Natalina, sto dormendo niente la notte. E quindi dormo dal fare del mattino in poi, non riesco a uscire da questa storia. Va bene. Iaia. Ma dopo mi faccio un bel caffè. Sì, altrettanto farò io. Appena finisco di mangiare un bel caffettino, magari decaffeinato per via della caffeina. Cappa. Novità, no? Stamattina ero in un paesello per farmi quella visita che dovevo fare. E dove ti hanno mandato? A Tiesi. Oh, e quelli di Tiesi le mandano a Sassari magari. Questa storia è strana, ho sentito gente di Sassari mandata a Nuoro, mandata a Cagliari, e magari quelli di Cagliari le mandano a noi. Il colmo è. Sembra proprio per fare, per creare disagio, perché io lo sai che non ci credo che non abbiano posti, non ci credo manco per il cacchio. Ce li hanno per chi, amici, familiari, parenti, raccomandati. Boh. Però quelli degli altri posti non li mandano qua, perché qua proprio manca tutto. Boh, è strano però, un capoluogo di provincia, cioè che ci mandano i paesi a fare l'esame. Boh, vabbè. Ciucucciu. Ciao Antonetto. Ciao, salutori, ben sentiti. Ne devo cercare un altro, vogliono un'altra ecografia, vogliono, e le analisi del sangue per la tiroide. Io non si finisce mai, anch'io sono le tasche piene, come va, va? Cannoni si bultani, tanto la qualità della vita è un po' così, dai, non è che sia soddisfatto. E tu Antonio sei soddisfatto? A voglia, trombo tutti i giorni, che se ne frega. Quindi, non si nafuti, basta trombare e potrebbe anche non mangiare. Poi fanno i cani fanno così, quando escono, che spariscono per una settimana o un mese, sei tranquillo che poi, dopo che hanno finito, che sono magri, ritornano a casa. E via. Ascolta, l'altra sera io tra un'orecchiata e l'altra, avevo sentito che parlavi con Giovanna, che le stavi dicendo sì mi arrivi bene, lei sono 60, però qua non arriva, lo sai, non arriva, o meglio arrivava nel QRM, tipo Santiago 6, ma era praticamente nel QRM, non era capibile. Sì, perché c'ha l'antenna del terrazzino, capito, la tubo 2001, il terrazzino dall'altra parte, quindi è come se tu fossi sotto casa mia in macchina, capito? Quindi adesso devo poco fa sto sento sto palzetto, che mi prendo un po' di RG58, faccio la calata e mi metto un'antenna sopra il tetto, poi quando arriveranno quelli del 110% sistemeranno il cavo. Sì, mamma mia, già lo sistemano bene il cavo, come l'hanno sistemato a me? Vabbè, comunque mi hanno suggerito di fare la lettera per conoscenza, no, perché non funziona davvero così che li vai a togliere dal totale, dal saldo i soldi, quindi Natali, perché poi risulti come inadempiente, capito, che non hai pagato i lavori, invece basta fare la lettera dall'avvocato, che non pago, ribadisco, poi se si riesce a recuperare qualcosa bene, tanto il cavo non lo cambierò, manco per la rottura di scatole, di vulcanizzare, di rifare la calata, ui, per carità. Vai Natali, io adesso stacco che vado a cucinare, vi lascio a breve, vai Natali. La lettera dall'avvocato ci vuole, grazie. paga. Sì, ripeto, poi non la pagherei la lettera, cioè non credo che vadano a puntarsi per quello. Poi quello che non pago io della lettera se lo pagano loro, naturalmente. Vabbè, però, cioè, non voglio dire il termine, cioè, non lo dico, cagarsi per 125 euro di danno, cioè, se questi fanno danni grossi, allora, non è che fanno spallucce e se ne fregano. Comunque qua non si vede più nessuno da settimane, il cantiere è fermo, già stanno tirando fuori storie, questi punteggi messi che prendono solo pubblico, capito? Aprono 10 cantieri, lavorano in uno e gli altri li lasciano aperti, il punteggio prende solo pubblico che poi andrà pagato, dicono che rientra nel 110, però lo Stato si sta scocciando di pagare i punteggi lasciati mesi e mesi e senza lavorarci su, capito? Va bene, signori, vi saluto, buon proseguimento, forse a dopo, forse. Ciao, vai Antonello. Marco, buon pranzo, tanto Antonello è cocuomane. Oh, Natale già ci aveva azzeccato, io mi ricordo che era quello il nome della tua attività, la bottega del cocuomane. Allora. Quanti anni sono passati? Erano gli anni 80, mi Natale, metà anni 80, cioè. Quando ci penso mi vengono i brividi. Era la bottega del maniaco, tutte le ragazze che arrivavano di lì, lui si spogliava nudo e faceva come coso, come quell'altro che è sparito la circolazione, quello di Usino. Vai, vai, maniaco sarai tu, e anche cuocuomane. Mettevi, come si chiama, in via Maghiluti, la smarra, e fermavi tutte le donne. Ah, io non so niente, non voglio sapere niente. Ma se cuocuomane questo pomponio? Mi l'ho visto, hai sentito là, ecco. Io sto mangiando salattini. Avanti, avanti Luca. Marco, ci vuoi venire che io mi sto dando alla politica, mi devo fare il partito di Uilu. Ehi, oh Luca, abbiamo parlato in due, ritieniti salutato, sto andando a cucinare, ciao, per riprendete voi, ciao. E io sto lavorando, sto facendo un lavoro, dai, su una scheda, riprendetevi, rimango in ascolto. Luca lo faccio sottosegretario del Pilo. Lo faccio sottosequestrare, no? Non ho capito, Luca, Natalino. Ma se può cuomare quel Natalino. Lo so che è un po' comare, non ci posso fare io. Ho visto sto ponte con la fedibra complicata nel braccio. Ah, bella fine ha fatto. Natalino, ti stai facendo una banana? Stai facendo una banana. Non ne posso mangiare banane che mi fanno salire la glicemia alle stelle. Mi sto facendo un toast a mia moglie. Guarda che su YouTube, aspetta, dove l'ho visto? Su Google, una banana e un limone fanno addensare il pisello, mica. Se lo fanno allungare di 15 cm, quindi cosa vuoi? La glicemia o 15 cm in più? Basta quello che ho, a me gli dice che gli basta. Allora vabbè. Quindi ce n'è anche per te, ce ne vuoi di bisogno. E invece vado a prendermi il coso, per sicurezza, porto la banana al limone. Il melograno, così almeno sto tre mesi senza cagare. Hai capito? Una volta che mi sposto mi si allunga il pisello di 15 cm. Bobo, bei discorsi. Bobo. Cazzo, sei d'accordo. Siete un po' cuomane, tutte e due siete. Ma sono sempre più cuomane. Un po' buono Natalino, Tranquillo, siamo persone secche, non ti preoccupare. Tu Luca, riparando computer? No, mia Manuela, una televisione, la scheda ha problemi, boh. Adesso vediamo. Ho controllato i video di Sonboni, il fusibile è buono, non dà segni di vita. E che marca è? Tre fuche, Western la scheda. No, non ne ho di quella, sono tre date. C'è un Akai e l'Inuit io. Akai quanti pollici? 17. No, piccolino. Mi serve a me un 42, il pallone LCD oppure un 32. se te invece è funzionante, è l'induiti ciò. C'è il salone, l'ho usato sino 6 volte, non di più. Mi sono tirato i tiranti per dopo domani, quando viene la bufera, la bobina in culo. Mira, non c'è me, niente. Режим работы с 9 до 20 часов. Телефон на связи. Чу-ку-чу. Тука спалит. Sta facendo un lavoro di precisione, sicuramente saldando roba di computer. Ah, ok. E quello, quando sono microprocessori è un casino. Cioè, microprocessori di quei, di quella gaggada, di quei CD, dovevano manco la pena saldando. Io ho un VU, mi si è bruciato la zona, quindi figurati tu, ho visto il fumo uscire. Per transito l'audio, come è successo la bomba di Bali Bacchisa, tale uguale. Quindi c'è una casa, buttazzo, c'è una parte, a chi serve per pezzi se la porta via. Oppure se ne ha un altro uguale, da dove fa uno, il discorso è quello. Cavolo, ma qua c'è qualcosa che non va, boh. Il segnale è normale. Boh, se dove venti qua, non lo so. Ma questo smitter, vabbè, no, in realtà vabbè, già è normale, lo so io perché mi sembrava basso, no, la portante. Boh, cosa ti volevo dire? Non me ne ricordo nemmeno. Vabbè, Natalino, sì. Uia, presente. No, c'è qualcosa di strano qua. Parla Antone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beh, c'è dove c'è il segnale di 10 dB a Marco. Avrà qualche spezzone messo male. No. Boh, senz'altro. E beh, Luca. Sì, allora, non mi fate fare, riprendo subito, dai. Fai, non c'è problema. Fai quello che devi fare. Sì, c'è un crollo dei segnali, vi sento tutti più bassi. Secondo me è il ponticello. Qua sei dove venti, poi non sono saliti. Che palle, guarda. Attacca il ponticello, fai attacco diretto, lo vedi subito. Sai cos'è Antonè, che non è stagnato. Cioè lo dovevo metterlo nuovo, mettere sui PL CRC se necessario, metterlo in una giornata non piovosa ovviamente e stagnare tutto con l'autoagglomerante. Invece così ha preso già pioggia, magari in mezzo al barilotto c'è finita ruggine e ossido di tutto, capito? Ah, capito. No, io ero soltanto fino a poco fa staccato la direttiva, quella in acciaio. E adesso ho quei 30 metri di RGV 113, l'ho controllato, ne ho comprati i PL nuovi, lunedì li rimetto nuovi i PL e poi faccio la calata di cava Giovanna, il capo grosso rimetto. Poi quando faranno la facciata se l'aggeranno. Meglio il capo grosso che il capo fine. Mi raccomando, mi prendi quelli di Fusaro, quelli che non avvitano. Già li conosco quelli, già mi sono capitati, no? Di quelli già non ripeto, non ti preoccupare, vanno col coso, con un pezzettino di RGV 113 e prova a avvitare. Se avvita lo prendo, se lo sono la tonca e quello glielo lascio in negozio. Natalino, la tua linea di trasmissione è a posto? Cos'è Marco? Ho detto la tua antenna è a posto? Stranamente sei molto più basso, boh. Sì, siccome ci sono falsi contatti qua. Guarda io Marco, sempre lo stesso, sono un po'. No, qua siete tutti più bassi. Sei 9.20 Luca, dovresti essere 9.25 tendente a 9.30. Ho agganciato anche, guarda, aspetta che è calo. Aspetta. Ho agganciato, aspetta un attimino. Guarda, se cala qualcosa, guarda adesso, sono sganciato. No, differenza, il suo smitter non ne fa vedere, è ambiguo, però magari è un errore, dopo li controllo i stazionari, dai, va bene, riprendete, che sono in cucina. Ma controlla l'ispezione che non ce ne sia qualcuno messo male. Adesso ci attacco la 220, positivo alla massa, qui faccio scoppiare la bobina dell'antenna, dove c'è il cortocircuito per l'RF, già hai capito, vabbè, per la statica. E fai così. Almeno ci butto tutto e buon viaggio. Mi dovrei buttare la roba che mi serve un 6009. Ah, 6000, sì, ma si trovano, Natali, si trovano. Piuttosto occhio alle versioni 9. Il 6009 nuovo, quello con la scheda VSP bla bla bla che vuoi, c'è un bel di gente che si è lamentata di problemi, non della scheda VSP, di altri problemi su quell'apparato, però succede una volta, succede due volte, succede tre volte, quando senti tante persone che si lamentano vuol dire che quella scheda nuova che hanno fatto nell'apparato, perché mi pare nasce con una scheda tutta nuova, il 6009, sta dando qualche problema. E invece tanto vale allora prendere il 6009 classico, originale, con la scheda grande, senza DSP e balevari, almeno vai sul sicuro o quasi. Per quello che non lo voglio prendere nuovo, perché ho sentito la stessa cosa, che è difettoso, te l'avevo già detto. Sì, guarda, ho sentito parlare su YouTube, su Roger K, su altre piattaforme, anche forum vari. Purtroppo credo che gli abbiamo fatto una scheda piccola, cioè, tu apri l'apparato, no? Il 6009, e vedi metà dello spazio vuoto, e vedi questa schedina piccola che prende metà del coperchio e basta. Cioè, anziché migliorare, però vedi, se cominci a mettere roba fallata in vendita non ne prende nessuno, poi va bene. A dopo, ciao, chiudo. Ciao, ciao. Stanno prendendo e portate le vintage, i mobili con 40S e poi gli altri sono dei VHF di quelli modello vecchio degli anni 50, no, gli anni 80 sono questi. Ho capito, allora niente da fare, no, stiamo parlando di due cose diverse. Dimmi. Qui non c'è problema. Sì, ho sentito di chiamare niente, con una partita. E niente, non c'è problema. Un cambio di vista era. Mopo, poi le sta arrivando da te, sì? Ehi, a voglia. Aspetta un attimino, non c'è qualcosa. Non ho chiesto a posto. Poi c'è qualcosa che non va. Che cazzo la pietra, la fa, si va a fare un culo, cazzo. Dove è il cazzo? Aspetta. Cancellato, una cosa allucinante sono questi telefoni. Scusate, io ti sono a posto, fusibile a posto, non so se è un problema di scheda questa o l'altra, sono accendo la spia, non parte. L'impulso in pratica la scheda a quanto pare non ha danni, non c'è nulla, di solito parte qualche diodo, capito, c'ha quattro diodi in serie. Poi ce ne sono dei piccolini controllati, nulla, sono a posto. Fusibile a posto. Se parte fusibile vuol dire c'è un danno più grosso, no? C'è qualche corto, qualche parte, ma non c'è nulla. Non so, se parte fusibile dopo diodi, se i diodi sono buoni, ci sono i condensatori. E poi c'è il trasformatore, già lo sai anche tu. Cambiate anche il trasformatore. Tutto bisogna controllare l'ingresso, poi magari è roba d'uscita, non lo so, transistor che c'è dopo il trasformatore, ma mi sembra strano. Se tocca c'è un corso, fate immediatamente fusibile prima di chiudi. Non lo so. Condensatore è possibile che sia. Condensatore ti fa funzionare, ti dà altri problemi. Però se si spegne di botto è dovuto da qualche diodo, ma i diodo sono buoni. Ho misurato, sono buoni. Sono perfetti. Capito, dovresti controllarlo per pezzo allora, come ho fatto io una volta. Sono arrivato dopo quasi un'ora e mezzo di lavoro, io la di due. Vabbè, l'avevo trovato nel cassone il televisore, perché altro. A un certo punto mi sono girato le balle, ho giubilato, l'ho smontato e mi sono tenuto quello che mi serviva, adesso ce l'ho buttato nel cassone. Attario, ci sei? Faccio su di 5 che stanno qua, sono qua a provare un apparato. Ciucu. Cacro. E c'è rimasto su 10? Prova, ora. Attento, Natalino, o Pomponio, Luca, ci siete? Luca? Sì, sono la fabbrica luce, ci sentiamo dopo. Ehi, dai un'occhiata al segnale, guarda se è cambiato. Adesso sei 9.30. C'era un bel diossido nel barilotto, Luca. No, adesso è come poco fa, è uguale. Praticamente mi arrivi sul 3, nel più 30. Sì, stazionaria zero, cioè uno sta uno proprio, no, non si muove, va bene, buona doccia. Sì, a dopo, ciao. Attenzione, 10. Hola. E punta di rompere i coglioni, eh? Credo più. Cuomane, cos'è cambiato? Spacciatore? Sì, prima la prendevo da te, sono a comprare Natalino. Ah, tradito mia. Tu la tagliavi troppo, sei furbo. Cioè, tu dava un chione, facevi 50 kg. Perché mi hanno detto che col monotalco si allungava più bene. Infatti, mi saliva stoppato, mi sentivo tutto profumo, sta cosa profumata, boh. Perché ci mettevo Robert io. Ma guardato. E allora? Linguini. Beh, spacciatore. Sai già, c'è la pasta alla doccia, sono senza mutande. Spera, arrivo su. Interessante. Avanti, Tattalino, e beh, com'è andata? Devo fare un'altra ecografia, ma perché dice che c'ho un nodulo surrenale. E le analisi del sangue, devo tornare a andare a Chiesi, secondo me. Ma ti ha dato l'appuntamento, devi di nuovo fare la prenotazione. No, l'appuntamento la dottoressa magari. Vabbè. Fallo, cosa devi fare? Non è concluso nulla, quindi dopo ti devi fare. E alla chiude non c'ho nulla, però vuole indagato questo nodulo che c'ho sul renale. Faccio capito. Quindi devo fare un'ecografia addominale. Ma per quella devi fare la prenotazione? E non ce n'è. Comunque ha detto, se non riesci a fare l'ecografia mi porti le analisi del sangue e così farò. Infatti. Ma magari se riesci qua da vedere, prova a insistere. E io insisto, se riescono a farmi la vera platamona qualcuno prima di andare. Perché vedi, non ne tengono conto di quello che hai fatto, la vogliono recente. Infatti, la vuole addominale e gliela facciamo. Cavagala, vabbè, dai. Interessante che non c'è nulla a farti dire. Interessante? È che non c'è nulla. Diciamo di sì. Ohia. E beh, i canarini poi uova altri ne hanno fatto una tagliata. Spiegato, no. Dal 15 marzo non è andata più. Ancora no. Solo. Io ne ho 5 di uova, ma no, mi sa che no, che questa prima covata non è andata bene. Allora, la prima ne ha fatto uno, si è aperto e l'abbiamo trovato morto il cuscino. Questa qua, la seconda covata che fare, ha fatto 5 di uova, li ho visti anche copulando, però non le sta covando, non capisco perché. Era naturale così. Decidono loro, ogni tanto ci va, tu riapri per dire la casetta da sopra, il nido, lo apri da sopra, subito va a controllare a vedere se ne è toccato. Ma quali sono quelli, i calopsite o gli altri? Calopsite, no, gli altri non ne hanno messo di coma. Se ne la metto già la fanno, ma è troppo casino, c'è bisogno fare i cites, poi io non aggiungo. Ma quelli che costano un bel non li hai messi? No, no, no, quelli lì no. Perché poi bisogna andare alla forestale, fare il documento CITES, fare la denuncia, eccetera, eccetera, della nascita, capito? Ti rilasciano il documento CITES per ogni pullo che c'hai. Poi se tu lo vendi devi rifarlo in duplice coppia, devi fare le fotocopie e fare duplice coppia. Uno lo dai al proprietario con nome e tutto quanto, data di nascita, eccetera, eccetera, e uno lo devi tenere tu per darlo alla forestale per denunciarlo. No, capito. Pensa a quei documenti, se ti trovano ti mettono le manette, non puoi tenerli. Lo so. Infatti a Romeo, perché l'ho trovato? Perché su Facebook l'ho messo, ho scritto chiunque l'abbia trovato non può avere la detenzione senza il documento CITES, perché passa gravi problemi se lo trovano. Ho messo anche il numero di telefono e dopo 3 giorni mi hanno telefonato e mi avevo già ordinato l'altro per non lasciarlo da solo, l'avevo ordinato, quindi vado a fare un guarda qua e dici no, non me lo portare più, gliel'ho fatto portare lo stesso. E adesso c'è anche come si chiama, Marley, che praticamente è quello che ha domesticato, lo prendo, gli gratto la pancia, lo accarezzo, lui mi dà i bacini, no, quello lì è... Però Marley parla poco, dice solo ciao, è ancora piccolino, bisogna avere anche pazienza, è troppo piccolo ancora, non c'ha nemmeno 6 mesi. Io se vedo quando ti dice ciao. E dice ciao. La trovo presente, la trovo lucida. Sì, a me Romeo ne fa tutti i colori. Romeo dice aiù vieni, aiù. Bobo, mi ha detto Bobo l'altro giorno. Bobo. Devo essere anche già conto attore. Può darsi buro, perché tutto quello che sento lo ripeto. Cioè, quello che ci sono delle cose che la tirano, tipo la canzoncina di coso della famiglia Adams, la fa tutta quanta, fa anche parababà, fa così con la bocca. Meno il mezzo indiano, meno indiano, quello le fa di tutti i colori. Ma fate dei ribrusci che ti assorgere, non fatela in casa, volete tutto fuori, ma rendiamo, se no quando fischia ti assorda. Te non ricordi quando ti ha fatto la sirena della macchina? Ah, quello quando mettevo la macchina per andare a lavorare, la mettevo in una traversa di via di Sicilia, perché la mettevo alla stazione, mi avevano rubato i 3 cristalli, stavano cercando di smontarmi il faro, un casino, allora non l'ho più messa lì, mi facevo un pezzo a piedi. Faceva ui prima che mi mettessi là cioè dicevo ma se non ci manco bevuto la cosa, dopo provavo e funzionava e poi lo ripeteva di nuovo, dice ma che cacchio, un giorno la padrona si affaccia a te, questa carogna che la prende in giro ogni giorno, la prende in giro e lei non capisce da dove proviene il sole, ecco chi è, me l'ha alzato la gabbia e me l'ha fatto vedere. È un merlendiano, era sì, il merlendiano parla benissimo, non bene, parla proprio le parole limpide, dice, si capisce benissimo. Ce l'aveva Edoardo, un collega del CISO, no? E quando era vivo la buona anima di Giancarlo, che era il maresciallo del CISO, no? E un giorno è entrato e fa e gli fa buonasera Mariscià, e il papà, c'era il merlendiano in mano Edoardo, perché lo portava lì, e il merlendiano ha detto Mariscià è lo stronzo, e lui quello che l'avete segnato voi. Come cos'è il calzato? Quando siete voi che glielo avete segnato. Poi quello lì faceva di tutto, faceva la 500 quando metteva in moto, la porta quando scricchiolava, cantava l'inno d'Italia, e poi dice come ti chiami? Aspetta, come cavolo si chiamava, non me lo ricordo più. Lasciami pensare, non me lo ricordo come si chiama, dicevi il nome, come? E lui si incazzava per dire, si chiamava Giulio, Giulio, come? E lui Giulio! E si incazzava. Poi Edoardo lo usava come manicure, lo sai cosa gli faceva? Gli toglieva tutta la pellicina secca da attorno alle unghie col becco, e non le faceva male, la toglieva tutta quanta, gli metteva la mano e gli faceva il manicure. Non lo so, però allora 150.000 lire, mi ricordo quando ero piccolo io costava solo 150.000 lire, immaginate cosa può costare adesso. E praticamente Edoardo era stato fortunato perché gli avevano regalato quello e un iguana, che era un tipo che doveva partire a fare il carabiniere, no, e viveva da solo e non li voleva abbandonare, gli ha detto se li voleva, e se li aveva presi tutti e due, anche l'iguana, l'iguana lo portava a guinzaglio, roba di sconate, dava, se li rompevi le scatole ti frustava con la coda. E quello ce l'aveva anche mio nipote. Ma era grande, questo che ci aveva guardato era grande. Poi non so che fine hanno fatto, se si è venduti o che cosa. Però il meridiano, vabbè, mi ricordo che se l'aveva dimenticato fuori dalla finestra, perché lo metteva di giorno e poi lo toglieva di notte. Se l'ha dimenticato ed era morto dal freddo, perché soffro molto il freddo. Perché non sono di qua. Ed era morto il meridiano, però l'iguana non lo so a chi l'ha dato, ma lo voleva dare a me, non l'ha voluto l'iguana. Dici tu sei scemo che mi metto l'iguana in casa, già mi fanno senso quegli animali. Il meridiano non è di qua, neanche qui i pappagalli non sono di qua. È logico che li devi trattare come si deve, se no ti muri. Tutti i pappagalli che ho io sono tutti australiani. Io non so di nome, di prima di là, di resto da quello di qua. Mi ha dato una fotografia a Carlo di quando è andato in Australia, ce n'erano a centinaia e andavano come piccioni a mangiare dalla mano, capito? Figura. Proprio ce ne sono storni in piedi, sopra i tetti, e gli davano il latte con il miele da mangiare. Sono buchi dossi, capito? Quello è il contrario di noi. Cioè anch'io sono con buchi dossi, ma non li posso mangiare in base, però le mangio lo stesso. Ma loro praticamente mangiano tutta roba dolce, perché se tarini, mangiano nettare dai fiori come il colibrì. Sono proprio come il colibrì, mangiano nettare dai fiori, il miele, delle api e tutte queste cose qua. Infatti il pastore che si fa è una polvere che arriva da fuori, perché qua non ne vendono, costa 40 euro, adesso è aumentato a 41 euro 3 kg di mangime. È un pastone tipo una farina, tu la prendi, lo diluisci con l'acqua, lo devi fare a livello di uno yogurt, come densità, lo devi fare come lo yogurt e loro lo mangiano così, oppure glielo metti, se asciutto loro fanno un casino nero, perché poi vanno a bere nell'acqua, la sporcano e non conviene, conviene già farlo tu, e poi se devono bere già bevono, però intanto è già diluito, capito? Infatti un travaglio è già. che un'oretta di lavoro la mattina la devo dedicare a loro, perché mi smotto le gabbie, le pulisco, loro sono liberi, mi vengono addosso, mi vengono sulle spalle, mi si mettono a giocare con i cappelli, con la catenina, insomma, e sono abbastanza domestici miei, capito? Ma l'esempio di Rubizio di musicare il lobo dell'orecchio, l'ho sgridato l'altro giorno, adesso non lo sta facendo, però si è preso il vizio, che si è domesticato, si fa toccare, si fa carezzare e tutto, però qualche volta quando è sulle spalle tu mi devi sì, non lo fa per male forse, lo fa per assaggiare, cosa ne so, e il musica già la legge. Ma no, Remi, perché c'è il becco appuntito. Fa male, sì, è un più che ti va di male, non ti si vecchi, mi intanto, via. Non pagano per la cosa. Se la coccolita, tu devi pensare, la coccolita che avevo dato a Franco, come mi vedeva, mi conosceva, cavolo, aveva un'intelligenza, lui non voleva essere preso, no? E allora come mi vedeva, apriva le ali, ma tu lo dovevi vedere, mi dila Franco di non vedere. E anche le calopsite fanno così, aprono le ali per minacciarti e poi colpe con E mi ricuritava a chi è, sapeva che io rubigliavo in mano e lui non voleva prenderlo, capito? E allora mi minacciava per non pigliarlo e gli tirava le beccacce alla mano lì. No, invece ce l'aveva Bernardo, la buona anima, ne aveva uno, si chiama Peppino, di sempre di Coccolita. Gli apriva la gabbia, gli andava sulle spalle, poi se ne rientrava da solo. Peppino si chiamava, era solo in gabbia. Figurati, sono intelligenti, figurati quelli tuoi che sono grandi, avranno un'intelligenza, chi sì? Sì, sono ben intelligenti. Comunque allora il più intelligente, quello che parla di più è come si chiama? Quello grigio, diciamo, adesso non mi viene il nome. Poi c'è il parrocchetto dal collare che parla bene. Il secondo però è come si chiama? E poi ci sono loro, sono due o tre che parlano abbastanza bene, che sono chiacchieroni proprio, capito? Il Cenerino è il primo, il Cenerino è quello che parla più bene di tutti. Poi c'è il parrocchetto dal collare, lo stesso è anche il Fronte Gialla, l'Amazzone Fronte Gialla è il secondo, dai, il secondo è l'Amazzone Fronte Gialla che parla bene. Poi c'è anche quello che parla bene, lo stesso, come si chiama, il parrocchetto dal collare, costa sulle 100 euro, non costa molto, però se tu hai pazienza impara a parlare in una maniera allucinante, chiacchierone proprio. Ci sono i filmati su internet, c'è una signora sarda che abita a Torino che gliel'hanno regalato, ma tu devi vedere, Cicco si chiama, Cicco, ma tu devi vedere, dice amore mio, gli dice amore mio, gli dice come stai amore mio? E a chi te lo chieda si vuole così, si cose e impara. C'ha molta pazienza, gli dedica molto tempo, gli ha messo tutti i giochini della figlia di quando era piccola e lui ci gioca, c'è un pappagallo finto piccolino di peluche che ci aveva la figlia e ci gioca e si mette a parlare con lui, ma non dai un bacino, gli dice, e gli dà il bacio. Eh? Pappagallo. La boccia. Vabbè, e te show my friend, saltiamo 9-5. Ciao Marco. Ciao cari, stavo ascoltando. Sono belli, peccato che i prezzi siano proibitivi per me, e poi qua c'è questa gatta che è sanguinaria, lo farebbe a pezzi. Ciappa. Allora, ho controllato il marilotto, era tutto ossidato. per un mezzo misero che ce l'ho, il barilotto, ho messo il disossidante secco, chiuso, adesso ho l'antenna diretta, adesso come riferimento, tenete ovviamente il segnale, questa è l'antenna diretta al baracchino, niente filtro, niente di niente, antenna diretta, 4 watt, Gianni mi dici com'è da te e poi Natalino e poi basta. Riprova Marco perché lo stavo controllando. Ecco qua, vabbè, la facciamo modulata, antenna diretta, 4 watt, così anche Natalino, per sapere se dovesse abitarsi l'antenna in futuro, almeno un riferimento, capito, grosso modo. 9 e 30 qua, sì. Con 4 watt, ma con lo smitter quale, del 3009? No, con lo smitter del gas. Ah, ok, vabbè, Natalino, guarda un po', 1, 2, 3. 9-10 qua mi segna, però già usare il 3009 sarà i 9-20 mi... Sì, comunque siete saliti il segnale, magari in trasmissione non influiva, però siete saliti il segnale, era tutto ossidato, sia il centrale e sia la vite e la calza praticamente. Adesso l'ho pulito, però quando dovrò farlo definitivo lo stagnerò bene, lo disossi, lo pulisco bene e poi lo stagno. Va bene, riprendete pure, io tanto sto facendo roba qua. Vai Gianni. Via, c'è anche Luca Batti. Ma la lampadina sta difettando, la lampadina a LED, però con quelle se facciamo quelle di una volta in vetro, mi capito, non si possono sistemare quelle, ma sta lampeggiando, quelli è di petrolio, dai, dai, roba, fabbri in culo, le buttate a me se te le hai, via. Fotta. Sono il capalucello. Sì, lo scappa è attaccato. Sì, già, io lo so. Io gli ho messo la cordicella, almeno lo ritrovo quando lo cerco. Se non lo tagliamo, così lo scappa più. Lo sono pure giù. Luca, gli ho messo la cordicella io, almeno lo trovo quando lo cerco. Mia, come ti è col cuore. E anche la lente di ingrandimento ti comprato. No, io tiro la cordicella, così già lo trovo. Kappa, fate da bravi, siamo in ora. Ah, non possiamo dire certe cose. Siamo parlando di pappagalli. Ah, ecco. Comunque c'è qualcuno che lo prende al guinzaglio, gli ha comprato la pettorina e se lo porta in giro, Natalì. Sì, vendono le pettorine, lo sapete. Cioè la pettorina te la leghi al polso e loro stanno sopra le spalle. Senza la faccia. E ce n'è uno che dice, la padrona gli dice, cos'è Checco? Checco, e lui dice Checco pappagallo, verde, rosso e giallo. Ti immaginate? Poi dice come fa il cane, fa il cane, fa il gatto, fa la pecora. Io guarda, temo perché attuglierli, perché a volte non se ne vogliono entrare in gabbia, se gli piace stare fuori, devo stare lui per farli entrare. Di solito la mattina sempre ti faccio un fischio e faccio. E loro prendono e entrano subito in gabbia. Però la sera se io li tolgo per giocare, la guida li avvisa, giuga e non vogliono entrare, capito? Qui devono stare a perdere tempo con loro. E se no li avrei tolti anche di sera, perché imparano un meme. Quando tu li togli fuori, uno che acquistano sempre più fiducia e vedono che tu non li fai del male e si fidano di te, capito? Vabbè. E già giocano con quel pappagallo finto che gli ho comprato, te lo ricordi? Quello che parla. Sì, ho capito, quello di piazzare sì. Con quello lì ci giocano, ci parlano, gli dicono roba, però non si comprende cosa gli dici. Dicono cose tutte mischiate, non si comprende niente. E certo che ci vuole una pazienza, poi, io proprio bazione. Sì, ci vuole la pazienza immune, perché se non c'è pazienza non puoi obbligarli a fare ciò che vuoi tu. Sono loro che fanno le cose e se tu vai a obbligarli ti beccano, c'è poco da fare, non vogliono che tu li comandi, capito? Vogliono solo che tu ci giochi, queste cose qua, loro giocano con te, tu li metti il dito e loro ti salgono sopra, li chiami, io li metto il braccio, lo chiamo per dire sul frigorifero, mi vola sul braccio. E le devono fare spontaneamente, se no, non li puoi obbligare, è logico, no? Non è come te lungare che tu dici vieni qua e deve venire, non è che lo tiri, lo fai come fai con lungare, se non vedi, quello lì decide lui cosa fai. E bisogna avere molta pazienza, molta gente pretende che addirittura li salga sulla mano subito. Io ho uno di quelli che, anzi due di quelli che ho venduto le calopsite, una mi ha mandato il filmato, la padrona, e si canta la canzone della famiglia Adams, l'altro l'ha preso un bambino, ma fa di tutto, me l'ha fatto vedere il filmato quella ragazza che vende i pappagalli. Gli ha dato il filmato, gli ha mandato e me l'ha fatto vedere, fa di tutto, gioca, entra dentro il coso della carta igienica, esce dall'altra parte, lo fa girare, c'è una bacchetta, lo fa girare attorno. Quelli del barbiere, vedi, quelli lì non facevano nulla, manco figli hanno fatto male. Ma quelle che cos'erano, calopsite o erano inseparabili? No, calopsite erano, quelle con la macchia arancione. Vuol dire lui non li ha mai messi in nido, oppure erano due masce, due femmine, Solitamente si riconoscono da quella macchia che tu hai detto, il maschio ce l'ha più scura e la femmina ce l'ha più sbiadita. Aveva due di quelli, ma non parlava, non facevano nulla qui. Forse era Edwin o Viravolo. E poi magari erano dello stesso sesso, perché figli non ne avevano fatto mai. Mi pare che ha chiuso me. E boh, non lo so, io so quello un bel nuovo. Era tutto vuoto, lui stavano pitturando dentro, non lo so, forse ha chiuso la barbiglia. E vabbè, veniva sempre tardi, io mi sono pianato per quello, perché non aveva orari, arrivava alle 9:30 e non veniva mai. Ma cosa vuol dire? Ce l'aveva nel coso, nel negozio lui, questi due passagari. E adesso c'è il cane, c'è un maltese. E magari se ne sarà disfatto di pappagalli. Beh già, io me ne faccio in quei ricchi che bisogna preparare a mangiare, no? Ci sentiamo più tardi magari se ci si. Già rimango in ascolto. Ehi, va bene, dai. Tanto anche io sto andando via perché devo portare più il cane. Tra poco qui. Devo andare a prendere aereo, dai. Ci sentiamo dopo magari, dai, se rientro dalla macchina. Verso le 7:30 l'accendo, dai. Sì, ciao Lucrezia. Ciao Danini. Apri. Sì, me, Luca Riello, buonasera, cambio da te. Attenzione per Luca Limone, la vita mia, che è che mi ha preso. E chi c'è qua? Ciao Luca. Nessuno, beh. Poi lo si è sentato, già sta andando via. Raga, andiamo poi a letto. Attenzione per Luca Limone, la vita mia, che è che. Beh, Luca, allora. Ti disturba, aspetta, aggancio, va. No, vabbè, io ho la televisione accesa qua in camera da pranzo. Beh, andiamo bene, no. Beh, Luca, tutto a posto. Oggi dico, mi sono accesa a Tonia, stai a un paio di rami. Oh, e l'hai finito l'altro giorno? Sì, aspetta. Sono scesi stasera con Emanuele. Dei rami fastidiosi, da. Vabbè, quindi già è finito. Ehi, già va bene, dai. Ehi, tu non mi da niente, Mifra. Ehi, vabbè, cosa vedi? Almeno l'hai fatto. Cavolo, che buio il dito. Luca, aspetta che provo un Midland, quello che devo mettere in macchina, se vi ascolti bene. Vabbè, questo è il K, vai, aspetta a provare. Luca. Come esce questo? Come va come apparecchio? Questo è quello che c'hai vissuto, lo ricordi? Oh, è gatto. Il Midland. Non ce l'avevo io, boh. E qual è? Il vecchio Midland, il 48. 68? Ehi. Vabbè. Bene qua. La pagava. Ok, dai. Perfetto. La radio è buona. Allora, continui a parlare. Ok, dai, allora aspetto, dai. Questo come va, Luca? Come va? 2, 3, 4, 5, 6. È un po' così, già si capisce, però è un po' così, forse gli abbassa un po' l'amplificazione. Va bene, posso provare, perché mi sta per andare. Eh? No, si rovina, se non li accendi è un casino. Ho capito, ripeti. Ho detto, se non li accendi è un casino. No, è bello, c'è ancora l'iPhone. E vabbè, questo è il K, bene va questo. Il K è domani. A vedere. No, certo mi sta chiamando mamma. Che vai, che vai. Chissà chi era, boh. Guarda, dava i numeri di tutti. Cioè, Paolo Tonelli dava i numeri di tutti, dava i numeri e boh. Vediamo se c'è Natalino all'ascolto. Natalì. Natalino è cocomane e non sta ascoltando. Sto detto che era all'ascolto, boh. Attenzione canale 10, c'è qualcuno?